Capitolo 41. Venezia, 3 novembre 1551. Gelidi chiarori dell'alba. Scruto le corte onde increspate della laguna, che devono portarmi la sconfitta, mettermi di fronte al suo volto. Isola di San Michele, una chiesa, un chiostro, un cimitero. In pochi giorni si raggrumano i gesti di tutta la vita, si gioca la partita finale, senza prevederne l'esito. Ogni indugio doveva essere rotto. Il vecchio Battista, la lepre eretica, Tiziano, finalmente braccato. Il suo cacciatore a Venezia. I giudei, stretti in una morsa che porta dritti al patibolo. Decenni di trame e assalti, tradimenti e ritirate, slanci e rimorsi precipitano d'un colpo. Profeti e re di un unico, tragico giorno. Cardinali e papi e nuovi papi, banchieri, principi, mercanti e predicatori, letterati, pittori e spie, consiglieri e magnaccia, dovunque e per tutti la stessa guerra. Costoro, io tra essi, sono i più fortunati. Hanno goduto il privilegio di combatterla. Pezzenti o nobili, bastardi o eroi, infami spie o cavalieri degli umili, sordidi mercenari o profeti di un tempo nuovo, essi hanno scelto il campo, abbracciato una fede, aizzato il fuoco della speranza e della vanità. Il campo è quello dove hanno trovato chi dilaniò le loro carni. La fede, quella che li tradì nell'ultimo giorno. Il fuoco, il rogo dove ancora ardono. Costoro sono stati gli artefici dell'ambigua fortuna e della incessante rovina. Hanno riempito, giorno dopo giorno, la coppa del veleno che li avrebbe uccisi. Dobbiamo chiedere perdono per una sorte troppo propizia, godere fino in fondo del privilegio, elaborare un ultimo piano. Tentare la folle sortita. Non resta molto da aspettare. L'incerta luce dell'alba comincia a dare forma alle lapidi e alle croci bianche, rada schiera che discende fino all'acqua. Il campanile di San Michele svetta su tutta l'isola piatta, piantato contro le stelle che vanno sparendo, a una. Brezza dal mare che ingobbisce sotto il mantello di lana. La stanchezza si sente tutta negli arti e nel dolore martellante dietro l'occhio destro. L'attenzione è rapita da ogni cosa, da ogni dettaglio. Chiede una tregua, dopo le lunghe notti insonne, con Joao al fianco a progettare l'operazione fin nei minimi particolari. In lontananza, barche di pescatori che fanno ritorno, girando al largo per evitare le secche insidiose della bassa marea. I primi gabbiani si alzano in volo o stazionano sull'acqua calma. Dovrei essere teso, agitato, invece avverto solo la spossatezza delle ossa, i reumi e anche una certa titubanza. Forse in fondo vorrei non sapere. Vorrei tenermi il sospetto che mi ha accompagnato in tutti questi anni, voltare pagina e incominciare una storia più sommessa, fatta di letti morbidi e affetti altrettanto accoglienti, trascinarmi via dal campo di battaglia e riposare, infine. Ma i morti tornerebbero a interrogarmi. Tutti quei volti insistono sulla memoria e dicono che all'ultimo uomo rimasto in piedi tocca saldare i conti. Scoprire la verità. Lo devo forse più a loro che a me stesso, a quelli che sono rimasti sul campo, ai profeti traditi dalle loro stesse profezie, ai contadini che impugnarono le zappe contro spade, ai tessitori che divennero soldati per spodestare i vescovi e i principi, ai compagni di tutta la vita. Lo devo anche ai giudei, strano popolo di pellegrini senza meta che mi ha accompagnato nell'ultimo tratto di strada. Oppure no. A volte penso che sia stata l'illusione che è servita per continuare, per tracciare nuove rotte, per non fermarsi e ammettere che più di tutto sono stati gli anni a tradirmi. L'una e l'altra cosa insieme, forse. Non riesco più a dare alle cose la stessa importanza di un tempo. Eppure dovrei, ora che avrò la conferma che ho cercato così a lungo, ora che la storia può trovare una conclusione. Ora quasi mi dispiace, perché so che ne sarò comunque deluso. Deluso d'essere giunto alla fine, deluso di riconoscere l'uomo che per 30 anni ci ha venduti al nemico. È buffo, ridicolo, che più di tutto io provi il desiderio di chiedergli di ricordare il passato, di far riemergere ancora tutti quei volti. L'unico che conosce davvero la mia storia, che può parlarmi ancora di quella passione, di quella speranza. È il desiderio stupido e banale di un vecchio, non altro. O forse è solo la stanchezza che mi porto dentro. Il sonno trascurato che smorza l'animo. All'orizzonte compare una barca, punta dritto sull'isola. Va bene, è ora di farla finita. Il gobbo accosta la barca al piccolo pontile. L'uomo incappucciato viene aiutato a scendere. Il sefardita gli libera le mani e gli toglie il cappuccio. Poi torna indietro e risale a bordo. Il vecchio si massaggia i polsi, strizza gli occhi arrossati, volto segnato dalla stanchezza e capelli grigi, scarmigliati. Porta una mano sul sopracciglio, a massaggiare una cicatrice profonda. Poi fissa lo sguardo su di me. Provo a raschiare via gli anni da quel volto. Quelet. È lui il primo a parlare. Un'azione degna del capitano Gert dal Pozzo. Quando l'hai capito? Il palmo preme sulla vecchia ferita. Sono tornato a Münster, tossisce, stringendosi nella cappa scura. Ti ho cercato per anni, e alla fine sei stato tu a trovarmi. Ma avevi già capito? Non è stato troppo difficile. Tiziano il Battista, un magnaccia con il nome di un eretico, Anversa, i sopravvissuti di Münster. 3 giorni fa ho avuto l'ultima conferma. Una trappola ben congegnata. Solo tu potevi approntarla. Mi avevano detto che eri morto a Münster, cercando di forzare il blocco dei vescovili. Si appoggia a una delle lapidi, le mani sulle ginocchia, sguardo basso. Nemmeno lui ha più l'età per albe gelide come questa. E soprattutto, non ha più una ragione per non ricordare. Te ne eri andato nella primavera del 34, a cercare soldi e munizioni, in Olanda. Mi facesti un favore. Mi sarebbe dispiaciuto vedere inghiottito anche te dalla rovina che mi apprestavo ad accelerare. Ero giunto a Münster con un incarico. Affiancare gli anabattisti nella lotta contro il vescovo. Diventare uno di loro a tutti gli effetti. Aiutarli a trasformare la città nella nuova Gerusalemme. E al momento opportuno far deflagrare quella speranza. Mi presentai a Bernard Rothmann con una lauta dote per la causa, raccontando di essere un ex mercenario rimasto lontano da Münster per molti anni. Più della mia storia poté il denaro. Guardo quell'uomo ricurvo, fatico a riconoscere colui a cui affidai la difesa della piazza del mercato nei giorni in cui prendemmo Münster. È soltanto il relitto del mio luogotenente, Heinrich Gresbeck. Riprende. Mi attaccai a te perché mi dissero che avevi combattuto con Thomas Münzer. Eri l'unico su cui poter contare. L'arrivo di Mattis, la sua rapida fine e la repentina acclamazione di Bokelson come suo successore facilitarono di molto il lavoro. Mancava solo che te ne andassi tu. Divenni il confidente di Bernard Rothmann. Ormai l'ombra vaga del fervente predicatore che aveva aizzato gli anabattisti contro il vescovo. Rispolverai le letture di Wittenberg. Passavo giorni e notti a discutere con lui dell'ordinamento della nuova Sion, delle usanze dei patriarchi della Bibbia, per aiutare la sua mente vacillante a partorire le assurdità più letali. Nemmeno questo fu difficile. Di là poco Bokelson si proclamò nuovo Davide, re di Sion, e dietro suggerimento del teologo di corte Rothmann, istituì la poligamia per ripristinare le abitudini dei padri. Fu il collasso. Non ricordo quante furono le donne giustiziate per non essersi volute sottomettere alle nuove ordinanze. Di quei mesi ho un ricordo vago, come di un sogno. La fame, le case messe sottosopra per scovare anche l'ultima pagnotta, i giudici bambini con la morte negli occhi ad additare il superfluo per le strade, corpi pallidi e smunti che si trascinavano per la città, ormai incoscienti. Avrei potuto andarmene e lasciare che la fine arrivasse da sola. Invece, per qualche strana alchimia, sentii che l'ultimo gesto di pietà poteva toccare soltanto a me. Dovevo mettere fine a quell'agonia. Raddrizza la schiena, a fatica, come se le spalle fossero pesantissime. Gli occhi fissano un punto indefinito sulla laguna. Saltai oltre le mura, percorsi il mezzo miglio che le separava dal fronte dei vescovili. Rischiai le pallottole, mi acquattai in un fosso e rimasi lì, per ore. Certo che se avessi alzato la testa avrei offerto un ottimo bersaglio ai mercenari di Von Waldeck. Mi catturarono e scampai alla morte, ricostruendo col fango un modello delle mura e indicando quali erano i punti penetrabili. Non bastò. Dovetti dimostrare la verità di quello che dicevo, risalendo nottetempo sulle mura e tornando incolume all'accampamento. Ricordi? Eri stato tu ad affidarmi il controllo delle difese. Le conoscevo palmo a palmo. Solo io potevo farlo. Il colpo di grazia toccava a me. Si piega di nuovo, sopraffatto dal peso. Gli porgo i fogli gialli, polvere tra le dita. Legge, tenendo le pagine a distanza e strizzando le palpebre. Le hai conservate tutto questo tempo. Mi restituisce le lettere che scrisse a Magister Thomas 25 anni fa. Eri al soldo di Carafa già allora? Sono stato la tessera di un mosaico che si è composto nell'arco di decenni. Quando mi reclutarono, ero soltanto l'aiuto bibliotecario dell'Università di Wittenberg. Il mio compito era quello di tenere d'occhio Lutero. Allora, soltanto pochi si erano resi conto di quello che un piccolo e ottuso frate agostiniano avrebbe potuto scatenare. Carafa fu il primo a capire che i principi tedeschi lo avrebbero usato come ariete per sfondare i portali di Roma e per castigare l'arrogante rampollo a cui i Führer avevano comprato la corona imperiale. In quell'intricato disegno, la mia parte fu quella di incitare l'animo focoso del più grande antagonista di Lutero, Thomas Müntzer, per alimentare il fuoco della rivolta contadina contro i principi e il loro apostata di corte. Mentre la ribellione divampava per tutta la Germania, Roma prendeva tempo e Carafa cercava di convincere i cardinali del pericolo rappresentato da Lutero. Ma poi le cose precipitarono. L'imperatore ragazzino si rivelò più ambizioso del previsto. Il suo ergersi a paladino della fede cattolica su un territorio esteso dalla Spagna alla Boemia lo rese molto più pericoloso agli occhi di Roma dei piccoli principati tedeschi. Da quel momento i protettori di Lutero divennero potenziali alleati contro l'imperatore. Nel frattempo i contadini insorti avevano cominciato a fare paura. La rivolta doveva finire. Quelle lettere sono servite a lubrificare tutto l'ingranaggio. Mi valsero la promozione sul campo. Il vecchio Gräsbeck prende fiato, tossisce ancora, mi guarda. Una smorfia. Dopo il sacco di Roma nel 27, Carafa trasse vantaggio dalle proprie previsioni. Nessuno osò più contraddirlo. Aveva visto giusto fin dall'inizio. I luterani erano gente senza Dio, che se ne fregava delle scomuniche e depredava la città del Papa. Cominciò ad accumulare potere, scalò la gerarchia ecclesiastica ed ebbe ancora molte buone premonizioni. Le parole mi escono da sole. Una rete di spie in ogni stato. Annuisce. Riusciva sempre ad avere le notizie prima degli altri, grazie alle molte paia di occhi che manteneva in ogni posto chiave. Dovunque succedesse qualcosa di rilevante, potevi scommettere che il vecchio aveva là uno dei suoi. Lo incalzo. Perché ti ordinò di fottere gli anabattisti a Münster? Che cosa c'entravano con Roma? Roma è dovunque, Gert. In voi sopravviveva lo spirito della rivolta contro i potenti. Lutero aveva predicato l'obbedienza incondizionata. Tanto bastava. Con i sovrani si può sempre trattare. Con voi no. Voi volevate sottrarvi al loro gioco. Predicavate libertà e disobbedienza. Carafa non poteva permettersi che idee del genere si diffondessero. Grazie ai miei rapporti dettagliati, aveva potuto conoscere la forza di una massa che marciava compatta. Aveva visto che cosa poteva fare anche un solo predicatore come Thomas Müntzer. Gli anabattisti dovevano soccombere prima che potessero diventare una minaccia seria. Carafa riconvocò tutte le spie alla fine degli anni 30. Il convento dei Teatini fu il centro di raccolta. Sembra stupito. Sei stato bravo. Un brivido gli scuote le spalle, ma continua a parlare. C'era bisogno di noi in Italia. Carafa era sul punto di ottenere dal Papa l'approvazione del suo progetto, la costituzione del Sant'Uffizio. Le motivazioni erano le più nobili: contrastare il diffondersi dell'eresia con mezzi nuovi. In realtà, quei mezzi, il vecchio li avrebbe usati contro i suoi avversari interni a Roma. La posta in gioco era quella più alta. Il soglio pontificio. Il brivido raggiunge anche me. E l'annientamento di tutti i suoi avversari. L'inglese, Paul, gli ha dato filo da torcere. A suo modo un vero osso duro. Ma Carafa ha giocato bene le sue carte che aveva in mano. E l'ha fregato. Per un capello, ma ci è riuscito. Il beneficio di Cristo. Infatti, ho curato io l'intera operazione, almeno fino a quando Carafa ha ritenuto di aver bisogno di me. Fin dall'inizio sapevamo che dietro a Fontanini e al suo libro c'era il circolo di Paul e dei suoi amici. Sapevamo che i cardinali spirituali avrebbero letto il libro e ne avrebbero tratto spunto per la loro azione di riavvicinamento ai luterani. Se ci fossero riusciti, Carlo V avrebbe riunito la cristianità sotto la sua bandiera in una crociata contro i turchi e oggi non avrebbe più avversari. Ma Paul non è diventato papa. E adesso gli spirituali cadono uno dopo l'altro sotto i colpi dell'Inquisizione. Il vecchio teatino è stato ancora una volta il più furbo. Ha rivoltato l'arma dei suoi avversari contro di loro. Il sole è spuntato sulla laguna, un cerchio rosso sangue che getta la sua scia nell'acqua. I pensieri si affastellano nella mente, ma devo sforzarmi di trattenerli. Devo sapere, il tempo è prezioso. Cosa c'entrano i giudei in tutto questo? Carafa ha stretto un accordo con i veneziani, non è vero? Ancora un cenno d'assenso. Gli occhi sempre più piccoli e infossati dalla stanchezza. I giudei sono merce di scambio. Tutti avranno un tornaconto dalla loro rovina. Se i marrani verranno riconosciuti colpevoli di perpetrare in segreto il giudaismo, i veneziani potranno requisire tutti i loro beni. Carafa glieli serve su un piatto d'argento. In cambio, pianta il vessillo dell'Inquisizione a Venezia, parando un'operazione in grande stile nello Stato che va famoso per la sua indipendenza da Roma. Saranno parecchi sovrani in Europa che suderanno freddo a una notizia del genere. Anche questa volta ti ritrovi dall'altra parte, capitano. Rimaniamo in silenzio, solo il lento schiumare della marea e il grido di un gabbiano. È questo il tuo compito? Incastrare i giudei? Un'ombra gli attraversa lo sguardo, quasi stentasse a parlare. La voce è un mormorio. Per questo sono stato mandato a Venezia. La spossatezza pervade ogni anfratto del corpo. Il mal di testa è aumentato. Premo un dito sulla tempia e mi appoggio anch'io a una lapide per dare sollievo alle gambe. Heinrich Gräsbeck fruga l'orizzonte. Poi torna a guardare me. Gli anni non lo hanno risparmiato. La notte è stata lunga e insonne per entrambi. Quale sarà la ricompensa questa volta? Sorride. Una fine rapida, probabilmente. È questa la paga del servitore più fedele? Alza le spalle. Sono il solo a conoscere tutta la storia dal principio. Carafa non può rischiare di tenermi ancora in circolazione. Non adesso, che si appresta a prendere per sé tutto il potere. Lascio scorrere lo sguardo sulle tombe. Su ognuna potrei leggere il nome di un compagno, ripercorrere le tappe che mi hanno portato qui. Ma non riesco a provare odio. Non ho più la forza per disprezzare. Guardo Gräsbeck e vedo soltanto un vecchio.